Polistrina funeste, quei lenti, fra quest'orride valze, mi ferirò l'udito. Ma qual orrendo e spaventoso mostro, terror di questi vini, esce dal monte. Quanto tenis